Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci alle 8:20 minuti. Buona settimana. Questo inizio di settimana. È lunedì. Ma tu dici è venerdì, poi dici è lunedì. No, lunedì è il giorno in cui l'operosità rientra e non è mai uscita. Non è mai uscita, caro. Persino l'Italia riesce a battere questa grande potenza del calcio che è la Macedonia. Al 90esimo. E tutti voi tifosi che inneggiate, che riempite di pagine inutili. Ma perché non dedichi la carta Costa al calcio? Stampa al perché no, non ci riesci, è più forte. Io non l'ho seguita, non mi interessava. Ho scoperto stamattina quanto è finita. Però tutti così, come dici tu, di quelli che si offrono per servizio a 300.000 euro come la Bignardi. Dite tutti così voi tifosi, però per dovere sì, immagino. Allora oggi San Daniele, ed è un tra tutti da San Daniele che perché ce ne sono come sono diversi oggi, però io scelgo Daniele Comboni, il padre missionario dei comboniani, perché insomma un evangelizzatore che ha passato tutta la vita con i poveri, i bisognosi. Veramente, insomma, e anche i comboniani oggi continuano una grande lezione. Devo dire che sono anche molto utili a noi giornalisti per seguire le vicende in alcune parti del mondo, perché sono una rete. Sono una rete di giustamente fanno sapere anche il santo dei prosciutti, ci scrivono. Non il Daniele Comboni, no, come sempre, questa nostra vena prosastica e materialista. Ma questo ascoltatore che ci ha scritto il santo il santo dei prosciutti. Va bene. Allora, oggi, tanto per ricordare ancora una volta che tra cristiani e musulmani sono secoli che ci si legna, è l'anniversario della battaglia di Poitiers, Carlo Martello che sconfigge i Mori. Dopodiché, tra le altre cose, nel 1990 oggi finiva il PC e nasceva il PDS. Però dopo tanti decenni, 2 decenni e mezzo, mi pare, caro Alino, che il livello di odio interno nella campagna referendaria del PD non sia tutto sommato molto secondo a quello di Trump e Hillary. Si odiano tra loro in una maniera che... Ma si odiano, dire... e guarda, e poi tra l'altro a che cosa è sceso il dibattito, come si sapeva, dopo le accuse di essere un vecchio sporcaccione a Donald Trump, che è un pochino... Si sapeva che lui è un po'... Ha ragione la scrittrice Oz su questo, ma non... state scoprendo come la pensa sulle donne Trump. Esatto. Però sai cosa ha fatto ieri Trump? Stanotte c'è stato il secondo dibattito. Prima del dibattito si è presentato con alcune donne, tra cui Paula Jones, ma anche una donna, tale Juanita Broderick, che per la verità non per la prima volta, ha detto che Bill Clinton l'ha stuprata, sentite. Bill Clinton praticamente l'avrebbe violentata nel qualche anno fa. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not qui è quando chiede scusa. Quando chiede scusa dice chiacchiere di spogliatoio. Però con Juanita Broderick. You're still afraid of him? Yes, but I'm still afraid, especially if she becomes president. He throws you onto the bed. Right. And then what did he do? And I was completely dressed. I had on a skirt and a blouse, and then he ripped my pantyhose and he raped me. Tra le lacrime in questa vecchia intervista disse mi ha violentato e Trump se l'è portata al fianco, no? Sì, devo dire mai una campagna presidenziale era scesa a questo, ma non lo faccio per moralismo. Dico che i repubblicani con i loro candidati, se lui ha sconfitto 17 candidati, quindi i repubblicani che oggi cadono al pelo di fronte alla crisi di credibilità in realtà sono colpevoli, perché l'establishment del partito non è stato in grado di selezionare uno o due candidati invece di 17 che fossero all'altezza, dilaniati dalla loro lotta interna, un po' come quella del PD per il referendum, alla fine pagano pegno e pagano il prezzo, questo è il problema. Sì. E riescono loro a far eleggere Hillary, che con un candidato credibile non sarebbe stata eletta, perché Hillary ha non problemi di questo tipo, però problemi di credibilità sulla politica e di trasparenza sulla politica ce l'ha pure lei. E infatti come? Trump gli ha detto: se quando verrò eletto presidente ti sbatterò in galera per la vicenda delle email trafugate. No, ti sbatterò, perché non potrebbe detto se io sono presidente tu sarai in galera, come dire, ci sarà un giudice tra i miei nominati che è più, però anche lì proprio, però che Trump abbia questo rapporto con le donne, adesso hanno tirato fuori la vecchia intervista in cui ha detto della propria figlia: se non fosse mia figlia le chiederei di uscire, perché è veramente una bellissima donna. No, ma si vede tutto nelle parole di Melania, la tua compagna, che si è tirata indietro, non è riuscita a cedere il suo disgusto dicendo: certo non è l'uomo che io conosco. Però semplicemente non l'hai sentito quando mamma. Perché non te le diceva davanti, insomma. Però mamma. Trump è questo, ecco. Lui ha detto moralisti ipocriti nei confronti dei repubblicani, dell'establishment repubblicano, che oggi fa un passo indietro. Sì, lui è come dicesse: in realtà la pensate tutti come me, anche se politicamente corretti non lo dite in pubblico. Cioè questa singolare convinzione che il vero maschio, ma il maschio di successo, è quello che prende una donna e la sbatte contro un muro, più o meno. Più o meno. No, lui ha detto di peggio per dirla, che questo. Per dirla alla Trump. La sua parola testuale è peggiore, mi faccio riflettere di questa qua. Cioè, ficcare una mano dentro e brum, strapparglielo di là, testuale. Quindi, un bellissimo dibattito. Vabbè, diciamo, poi che vengano fuori queste cose che sono di 10 anni fa, ricordiamolo, queste registrazioni. Beh, giustamente ognuno poi utilizza le armi che può. Sì, le armi momento, che può, nel momento giusto. Voglio dire, rivelano che non sono un dibattito sulle scelte dell'America. Insomma, è un po' come l'Italia, si parla di tutt'altro quando c'è la polemica politica che degenera. Infatti io sono contento, Oscar, perché noi dopo la pubblicità inizieremo a parlare del referendum, ma nel merito. Tra l'altro lo dobbiamo dire agli ascoltatori, c'è la par condicio. Quindi se io dico A, Oscar dirà B. Esatto. E quando tu a prescindere dalle nostre convinzioni. No, io dirò B. È questa legge assurda della par condicio, ma noi ci adeguiamo. Noi siamo mummie imbalsamate. E quindi oggi parleremo per esempio del nuovo Senato, due ospiti, uno per il sì, uno per il no. Ci spiegheranno perché sì, perché no. Tu lo sai che alcuni dicono sì, no, invece che Senato, dicono sì nato, così sì nato, cioè, no nato e così via, così c'è una campagna subliminale oramai. Però Oscar, mi ha colpito questa notizia, che a Napoli oggi c'è uno sciopero, e tu dirai, vabbè lo sciopero. No, più volte sul mattino io seguo le vicende ferrovie locali di questa scassata società, e qui devo dire ci sono amministratori da un po' di tempo che tentano di risanarla, ed è un po' un'opera complicata. Ecco. Sì. Autonomo Volturno, certo. Pensa che nasce questo nome, dice, cosa c'entra Volturno? Perché infatti era un'ex società di bonifica dei fiumi che gestisce il traffico ferroviario cittadino, pensa un po'. Però cosa fanno? Hanno eliminato da oggi un vecchio regio decreto che permetteva ai parenti dei dipendenti di viaggiare gratis, ecco, coi biglietti gratis, ecco, e quindi sciopero. Io quando l'ho detto ho scoperto che c'è un popolo che ci ha scritto, ci ha chiamato, guarda, Oscar, che fosse l'eccezione. Ma no, ci ha chiamato per esempio Matteo da Lecco, ci ha scritto: Matteo, buongiorno. Allora abbiamo buongiorno. Ma è vero, Matteo, che funziona così anche nelle ferrovie dello Stato? Ma allora, ho fatto quest'anno 25 anni ad aprile e finalmente ho iniziato a pagare il biglietto del treno. Esatto, finalmente. Certo, finalmente. Perché fino a 25 anni, essendo figlio di dipendente, ma niente di segreto, in realtà basta andare in internet, si cerca agevolazioni, servizi o qualcosa del genere, e comunque trova tutto. I figli e coniugi, anche dopo la pensione, viaggiano gratis. Viaggiano gratis. Ai figli fino a 25 anni. 25. Ma è vero che i coniugi per tutta la vita. Per tutta la vita. Esatto. E pensi che è perché lei è giovane, perché prima di Moretti, il precedente amministratore delegato delle ferrovie, non c'era neanche il limite di età per i figli. Lo introdusse Moretti. Prima i figli erano comunque anche loro vita naturale durante. Comunque Matteo, lei dice finalmente posso pagare il biglietto, perché si sentiva un po' un privilegiato. Esatto, onestamente era una cosa un po'. Allora, diciamo che a fine mese faceva comodo non pagare quei 107 euro. Però insomma era un po' una situazione, mi sentivo un po' privilegiato. Ecco. Questo sì, dice, faceva comodo, però non capiva tanto il perché. Allora, per correttezza, esatto, diciamo, prima di beccarci la lettera di Trenitalia, che c'è un fondo familiare che bisogna pagare annuo, che è comunque di poche decine di euro, di 15 euro, eccetera, eccetera, distinto, perché ci sono 5 euro in più, tra il traffico pendolare regionale e gli interregionali. Però stiamo parlando di una roba roba di 15 euro l'anno per tutta la famiglia gratis. Però guarda che anche nell'Italia non ti credere. No, ma infatti in Italia lo sai che ci sono quattro convenzioni gratuite diverse. Una si chiama ID 94%, 94% di sconto, 90% di sconto, 50% di sconto. Ma guarda, mi ha scritto anche un ascoltatore, noi la riportiamo così, che anche Delta Airlines sui voli internazionali concede ai parenti, ma questa roba dei voli internazionali del personale dipendente, dei pensionati, sono tutti pensionati, dei vedovi, dei titolari e così via. È una convenzione IATA internazionale, in realtà vale per tutte le compagnie. Quindi ci sono milioni di persone al mondo che viaggiano gratis sugli aerei. E vedi, quindi va bene così. Cioè ci va bene così. No, ovviamente no. Ovviamente no, però questo ti spiega perché adesso c'è lo sciopero di 4 ore stamattina, cari napoletani, alla Circumvisuviana, alla Flegrea e alla Cumana, perché i dipendenti di queste quattro scassatissime, bisogna dirlo, società che non riescono a prendere dai biglietti neanche il 20% del totale dei loro costi, neanche il 20, e dicono: come, loro sì e noi no, siamo sempre lì, no? Un privilegio ma giustifica infatti, l'altro. A me la questione che fa più arrabbiare è che sarà proprio questa la giustificazione: allora lo togliete anche ai dipendenti e delle ferrovie dello Stato. Dico io, allora no? Lo togliete, e togliamolo, e come? Infatti, e togliamolo. Forse per noi lo toglieremmo adesso qui, guarda, c'ho qui un decreto, Oscar, se lo puoi firmare. No, firmalo subito. In diretta. Lo emaniamo subito. Emaniamo timbro, ecco, timbro. Venga emanato. Okay. Però, a Dubai, esatto. come in Arabia Saudita. Dico. Cari ascoltatori, ma quando la capiamo che un privilegio, perché poi io lo so che se tu chiami loro dicono: ma noi veniamo trattati male, il problema sono gli altri. No, tutti quanti dovremmo ragionare. Dicono che è stato fatto per compensazioni contrattuali non arrivate. Comunque guarda, Milano lì 10 ottobre 2016 stiamo stendendo il testo. Il cardinal Giannino approva e il pontefice Alino ha emanato. Io come cardinale camerlengo basta privilegio. Ma come vedete, aboliti tutti i biglietti dei parenti. Nel fine settimana della grande vendetta dei politici con le loro soluzioni, diciamo così, no? Sulla giustizia. Però facciamo questa riflessioncina: al di là delle spese della politica, delle finalità non proprio istituzionali e di come i giudici le classificano, però come vedete poi nella società italiana di privilegi, concessioni, benefici è pieno e stratificato. Cioè, guarda che un'ascoltatrice dice: anche i giornalisti hanno svariati benefici, pare. E a questo volevo arrivare, per carità. Quali? Di Dio. Cioè, nel senso, per esempio, è vero, non so, entriamo a volte nei musei gratis, ed è sbagliato. Cioè, è sbagliato se uno lo fa per lavoro. È un conto, se no è sbagliato. Tutti microcaste siamo, troppi capelli in testa, dovremmo tutti quanti spogliarci di queste cose. Sì, però l'effetto efficienza. Chiariamo una cosa, perché io il biglietto del treno lo pago, la metropolitana pure. La pago. Io pure. Che benefit ha in mente questa ascoltatrice? Perché io i biglietti dell'aereo li pago, pago tutto. Quindi non bisogna capire che tipo di benefits. Se pensa che non paghiamo i biglietti del treno, attento, io li pago. Però è la reazione tipica di chi dice: voi non potete parlare, zitti. Perché come vedi, il silenzio chiama l'altro. Io vorrei un beneficio, pagare meno tasse, ma invece non posso. Ecco, anche i parenti di quelli che lavorano all'Enel hanno la corrente elettrica gratis per 50 anni. Non lo so, io la giro così, non vorrei che poi adesso ci chiamasse l'Enel arrabbiata. Però, ripeto, le tariffe agevolate per parenti sono mica l'eccezione in Italia. Purtroppo così. Questo vedi, allo stadio ho portato mio primo figlio, Mattia, l'ho portato alla prima partita l'anno scorso e ho pagato il biglietto, cioè non so, allo stadio ho pagato il biglietto, poi un'altra volta no, sono riuscito a entrare grazie a un accredito perché mi hanno invitato, come invita un amico, però la prima volta l'ho pagato, quindi l'idea allo stadio, i giornalisti entrano gratis quelli che lavorano, non è che tutti i giornalisti entrano gratis. Comunque Claudio da Roma, buongiorno. Claudio da Roma è contro i privilegi in generale, però posso spezzare una lancia a favore degli scioperanti. Se io negozio un contratto con un datore di lavoro e il datore di lavoro dice che nel contratto, oltre allo stipendio, è compreso questo beneficio, privilegio, chiamatelo come vi pare, per me ha un valore economico, quindi di fatto viene tolto un valore economico ai dipendenti. I dipendenti ovviamente protestano, perché quel privilegio, come stiamo dicendo, ha un valore. In questo caso però hanno abolito un regio l'applicazione di un regio decreto del 33, credo, no? che forse è un po' datato, Claudio, non credo. Quando loro hanno iniziato a lavorare per quella società, c'era. Sapevano che questo regio decreto c'era e quindi hanno accettato a quei termini. No, ma non si può, ma no, non funziona questo. Lei mi sta dicendo come questo vecchio luogo comune del dibattito pubblico italiano. Io la rispetto nel dirlo, non dico che vecchio non va bene, però voglio dire, è un argomento ricorrente. Il famoso diritto acquisito, no? Allora, se una cosa è infondata dal punto di vista economico, non può essere vantata come un diritto acquisito, perché resta, questa cosa significa per la società, in particolare per quella società che, ripeto, non riesce ad arrivare al 20% del recupero dei costi attraverso i biglietti, un ulteriore buco economico. Quindi è una maniera attraverso la quale si perpetua l'inefficienza e quindi si impedisce l'aumento degli stipendi, che si può fare quando le cose vanno meglio, per così dire. Quindi, come vede, questo argomento che lei cita convinto che sia una buona cosa, in realtà è un argomento che tanti ripetono, ma che ha un punto di infondatezza molto elevato. In ogni caso, grazie Claudio da Roma, vedremo come andrà lo sciopero dopo la pubblicità, tra qualche minuto. E adesso andiamo a prenderci un bel caffè gratis, vai. Noi lo paghiamo anche qua dentro, ragazzi. Paghiamo anche che... il caffè, non siamo noi al sole. Che però non... c'è la convenzione al sole, costa, c'è la convenzione con la Pellegrini e costa meno. E quindi costa meno. Con la chiavetta. No, spaccio aziendale negli aziende. Non è gratis. Non è gratis. Noi con il gruppo Sole non prendiamo niente gratis. Vorrei che fosse chiaro questo. Di sti tempi poi no, proprio. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP. Leader mondiale nella gestione del personale. Siamo qui. Allora, ecco, una cosa che non paghiamo sono i giornali. Io pago anche quelli la mattina. Se volete vi do la fattura del mio edicolante. No, io no, perché faccio la rassegna stampa. Arrivo qua, c'è la mazzetta dei giornali. Quindi posso dire... La mazzetta è un giornalista, quella che io lascio qua, il mio collaboratore qua, ma io me la pago. 32 euro ogni mattina pago. E invece io posso dire che prendo la mazzetta tutti i giorni. La mazzetta dei giornali. La mazzetta dei giornali. Non dirla così, perché qui veniamo equivocati. Comunque ci chiama Anna da Civitavecchia. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi. Ferroviera, no? No. Prego? No. Ferroviera, no, diceva. Sì, io mi sento chiamata in causa per due motivi. Uno perché sono figlia di ferroviere e una perché sono moglie di dipendente di ferroviere. Di Enel. Perciò posso testimoniare. Dunque, per quanto riguarda i figli dei ferrovieri, siccome la maggiore età una volta era 21 anni, potevano avere i biglietti gratis fino a 21 anni. Se erano iscritti all'università si estendeva a 25, dopodiché nulla più. E infatti il nostro ascoltatore prima ha detto fino a 25 anni non ho pagato, adesso ecco. Poi per quanto riguarda l'Enel, la cosa una volta la moglie non paga a vita? No, assolutamente. Allora, la moglie del dipendente Enel, avevamo ferrovie. No, quello lì la moglie l'aveva sempre, giustamente. Però pure lì c'erano dei chilometraggi, a seconda del ruolo che si rivestiva c'era un tot di chilometri annuali che si potevano usufruire. Perché dice giustamente? No, perché a seconda, non so, veda lei, perché c'era chi aveva la possibilità di viaggiare sempre senza chilometraggio, nel senso che potevo usufruirne quante ne voleva, e altri che mansioni minori ne avevano... avevano meno chilometri a disposizione, e questo era un benefit suddiviso a seconda del ruolo che si rivestiva. Sì. Per quanto riguarda poi l'Enel, noi avevamo degli sconti, non l'elettricità gratis, guardiamoci bene su questo punto, perché sconti. Ora però è cambiato tutto, perché io, essendo erede vedova di un dipendente Enel, non ho diritto più a niente, perché la legge è cambiata. Ultimamente, proprio in questi mesi, completamente a noi eredi non viene dato assolutamente. Va bene, allora capito, è cambiata la legge, grazie Anna. No, aspetti, no, perché sennò non esondiamo, però ci ha già dato alcuni elementi interessanti. Io ho grande rispetto per la signora, però che interviene con il tono, come dire, mi stanno usurpando, e quindi su questo non c'è niente da dire. Il problema è che chi ha delle concessioni di vantaggio in Italia non capisce che gli altri non ce l'hanno e che non dovrebbe avere. Punto, lo dico con rispetto, non voglio mancare di rispetto a nessuno. Sabatino invece da Roma? Punto, lo dico con rispetto, non voglio mancare di rispetto. Sabatino invece da Roma? Sì, Sabatino. Buongiorno. Ma... Sabatino, però, che succede? Noi sentiamo noi, deve spegnere la radio. Dov'è lei? Non... Buongiorno, buongiorno. Dica. Volevo dire che mi risulta che oltre ai maschi fino a 21 o 25, sì, le donne, se rimanevano nubili per tutta la vita, erano gratis ferrovie. Sì, nel matrimonio. Forse è cambiata, esatto. Forse c'era, forse non c'è più, non lo so, questo ci dobbiamo, Sabatino. C'era sicuramente, non so se c'è ancora, però ci pone questo dubbio, non lo so. Sabatino, lasciamo con questo dubbio, magari ci informiamo. Caro Oscar, noi qui avremmo organizzato un dibattito sulla questione del Senato, il bicameralismo, cioè sul referendum. Perché dici avremmo? No, lo abbiamo organizzato, abbiamo. Solo che... Luca Antonini al momento non professor ci risponde. Luca Antonini che doveva il no. Sostenere le ragioni del no. Quindi abbiamo Carlo Fusaro che sostiene le ragioni del sì del nuovo Senato. Diciamo per par condicio noi abbiamo organizzato in termini paritari e egualitari. Sennò poi la radio dice a noi che siamo responsabili per le sanzioni. Questa legge liberticida ma che dobbiamo osservare. Va bene, professor Fusaro, buongiorno. Buongiorno insieme a tutti. Cercherò di essere equilibrato. No, non dica sì e no. No, lei sostenga no, pure il professor sì. Fusaro è uno dei più rigorosi sostenitori del sì. Esatto. Allora, il nuovo Senato è uno dei punti centrali di questa riforma costituzionale, nel senso che il Senato nuovo non sarà più di 320 senatori più quelli eletti senatori a vita, ma sarà di 100 senatori. Ecco, il fatto già che il Senato non scompaia, professor Fusaro, ma rimarrà anche se in una formula diversa, non è un limite? Le faremo un po' di domande, diciamo, un po' puntute, così facciamo quelli del no. Anche non troppo tecniche, magari un po' da cazzoni, ma sa com'è il bar? Dunque, prima di tutto non c'era in Parlamento la maggioranza per abolirlo. Secondo punto, soprattutto, si ritiene che sia utile che ci sia una rappresentanza delle istituzioni territoriali. È una cosa che c'è in tutti i paesi europei della nostra dimensione, anzi, sopra gli 11 milioni hanno tutti due camere, la seconda che rappresenta l'ordinamento diviso in regioni, stati, Länder, quel che sia. Ed è una cosa che si è sempre detta, si dice da qualche decina d'anni che sarebbe utile questo, perché al di là delle modifiche della riforma, di cui oggi non parliamo perché riguardano la parte dei rapporti Stato-Regioni, il nostro resta uno Stato saldamente regionale. Sì. Quindi comunque non c'erano i numeri per cancellarlo totalmente, però... No, però, Milan, mi perdoni, sì. Non c'erano i numeri... perché è sempre una considerazione di realismo politico che sì. Deve sorreggere le nostre valutazioni, però la verità è che non c'erano perché la maggioranza, non solo quella risicata, ma anche degli altri che semmai criticano come la riforma è stata realizzata, ma sull'idea che una delle due camere rappresenti le istituzioni substatali, diciamo, quindi regioni e o comuni, qui l'opinione è maggioritaria larghissimamente da molte decine di anni. Professor Fusaro, i giornali proprio in questi giorni titolano facendo il paragone con le elezioni di secondo livello che partono adesso nelle aree metropolitane, di cui non si occupa nessuno tranne i partiti. Questo, sulle pagine, per esempio, Cittadina di Milano c'è tutto un fervore di dibattito dicendo: guardate che il Senato ve lo vogliono fare così con questa elezione di secondo livello, tanto valeva per tenere comunque un Senato che avrà delle competenze, sia pur non più di fiducia al governo, intricate nei confronti delle materie che rimarranno di competenza esclusiva della Camera, ma comunque le avrà e che comunque avrà la competenza per quello che riguarda poi le norme che hanno come oggetto gli enti locali, tanto valeva allora avere un'elezione diretta, non di secondo livello, in cui i consiglieri regionali faranno pastetta tra loro. Oltretutto ci sarà bisogno di una legge ad hoc per capire come funziona bene questa elezione. A questa obiezione che si risponde? Beh, prima di tutto di una legge ad hoc non c'è bisogno, perché la riforma contiene in uno dei suoi ultimi articoli la disposizione transitoria con cui sarà eletto il primo Senato, e questo è logico, perché sennò andrebbero sciolti tutti i consigli regionali, poveracci, e non c'è motivo di farlo. La seconda osservazione è che i consiglieri regionali eleggeranno su piccole liste che andranno da 2 fino a massimo 14, che è il caso della Lombardia, i rappresentanti. Allora lei, Oscar, dice pastette, saranno intese fra i partiti, come naturale che ci sia, o non intese se ci sarà un voto maggioranza-minoranza. si è voluto che fossero i consigli proprio per assicurare la presenza delle minoranze. Tra l'altro, ecco, spieghiamolo agli ascoltatori, perché l'attuale Senato ha 320 senatori, dovesse passare il sì saranno 100 i senatori e di questi 95 non saranno eletti da noi cittadini, ma saranno eletti appunto dai consigli regionali e delle province autonome, sì. Tra consiglieri regionali e sindaci. Quindi il nuovo Senato sarà composto, se passa il sì, da consiglieri regionali e sindaci. Esattamente, perché l'intendimento è proprio quello di non avere eletti che rispondano direttamente al corpo elettorale. Questo è proprio voluto, è una strategia istituzionale precisa che è seguita da buona parte degli altri paesi pure, perché se devono rappresentare l'istituzione, l'interesse dell'istituzione, cioè della regione come consiglio e governo regionale, è bene che siano presenti nei consigli, oppure che continuino a fare i sindaci, che siano presenti anche in Senato per parte della loro attività e che siano appunto espressi da quelli. Non devono, se no diventa un doppione inevitabile, no? Sì. Su lista di partito. Come è adesso. Però, professor Fusaro, un'obiezione è questa. Siccome il nuovo Senato dovrebbe, per esempio, tra i vari compiti, avere rapporti con l'Unione Europea, quindi un tema molto, molto importante, si dice, ma come sindaci che fanno part-time i senatori, consiglieri regionali che fanno part-time i senatori, come fanno ad avere le competenze per trattare materie così delicate? Beh, non è esatto, Milan, mi perdoni, che debbano tenere i rapporti con l'Unione Europea. Questo non è esatto. I rapporti con l'Unione Europea continuerà a tenerli essenzialmente il governo, come è sempre stato e come sempre sarà. Quello che succede è semplicemente che il Senato è considerato delle due Camere quella che un po' tiene le fila dei raccordi fra comuni, regioni, avendo abolito l'ente provincia che c'è nel mezzo, Stato e tenendo conto anche naturalmente dell'Unione Europea, ma non è che abbia competenze giorno per giorno su questo punto, semplicemente vigila, controlla come questi rapporti si sviluppano e darà la sua opinione, ma è logico, già adesso, forse i cittadini non lo sanno, ci sono delle competenze in materia europea delle regioni per le materie sulle quali le regioni possono fare leggi. In altre parole, ci sono ricadute che possono essere dirette sulle regioni da parte di quel 40-50% delle decisioni che poi prende l'Unione Europea e non prendiamo più noi come Italia, per cui è utile che il Senato, che rappresenta queste istituzioni territoriali, abbia da dire qualcosa al riguardo. Ovviamente l'obiettivo di tutto ciò sarebbe eliminare proprio questo bicameralismo perfetto, cioè avere due camere che non fanno le stesse cose. Questa tra l'altro è una polemica che viene fuori, secondo me, essenzialmente per non conoscenza, diciamo, della realtà e anche della terminologia. Il bicameralismo perfetto e paritario scompare di sicuro, senza alcuna discussione, contrariamente a quello che a volte si dice con questa riforma. Perché? Perché il Senato, diceva Giannino all'inizio, non intrattiene più il rapporto di fiducia col governo, cioè non può far cadere il governo più il Senato. Mm-hmm. Punto secondo, la Camera ha la prevalenza sul Senato per il 95% della legislazione. Quindi è un bicameralismo saldamente differenziato anche nella composizione di cui discutevamo prima. Anche se sulle competenze, Oscar, si sa che il Senato è una formulazione per cui il Senato potrà, la dico brutalmente, mettere becco, chiedere di poter mettere becco su tante delle leggi. No. Per quello Milan può chiedere di mettere becco. E la Camera deciderà. E la Camera deciderà. Su tutte le leggi che la Camera approva, però in 40 giorni deve dire la sua, dopodiché la Camera decide. Lei pensi al processo legislativo attuale, lei capisce che 40 giorni, pensi alla legge sulla concorrenza che al Senato è ferma da un anno e rotti. Pensi alla legge sugli unioni civili, quanto ci ha messo, pensi alla legge sull'omicidio stradale, giusta o sbagliata che sia, adesso non stiamo discutendo naturalmente del merito di queste leggi, ma pure è rimasta bloccata molto a lungo. Professor Fusaro, a me tocca fare delle obiezioni, perché che doveva fare chi quelli del no, che però non c'è. Lei sa che uno degli argomenti del fronte opposto a questo è dire no, tutta storia, perché se andiamo a vedere qual è la percentuale di misure che sono in fortissimo ritardo nel calendario delle approvazioni parlamentari, come quelle che per esempio lei citava, professore, si deve alla mancanza di volontà politica, al fatto che non c'è un'intesa politica, perché tanto poi nelle norme che davvero sono fondamentali oramai per l'attuazione del programma di governo si va per decreto. La risposta a questo è no, nella Costituzione si mettono nuovi limiti ai decreti legge, non sarà così, eccetera eccetera. Però ecco, questo d'accordo, però mi lasci dire, l'articolo 70, tornando alla materia che prima Milan sollevava sulle competenze tra Camera e Senato intrecciate che rimangono nel nuovo testo, quell'articolo effettivamente, mi perdone, uno lo vede e lo paragona a come funzionava prima la disciplina del procedimento legislativo e rimane abbastanza senza parole. Cioè, se fosse questa semplificazione, ecco, secondo me è proprio un equivoco questo. Dica. Primo punto, vi invito, invito gli ascoltatori di buonissima volontà, devo dire. Ecco, ce ne vuole molta. A paragonare gli equivalenti articoli della Costituzione che dico tedesco-svizzera sono molto più lunghi dell'articolo 70 e limitrofi italiani. Ma perché? Perché se io dico io e te facciamo le stesse cose, ho finito, non devo dire altro. Se invece devo dire tu fai questo, io faccio quello, in quel caso tu fai questo, in quell'altro caso tu bisogna fai questo, è più chiaro che lo devo specificare. In realtà la cosa è semplicissima, i procedimenti sono due, quello che rimane bicamerale e l'abbiamo calcolato per circa il 4-5% delle leggi, in questa legislatura ad oggi sarebbe stato il 2,8% per essere precisi, tutto il resto è a prevalenza Camera, con alcune varianti per dare al Senato un ruolo più incisivo o no su certe materie, per esempio quando lo Stato interviene sulle materie di competenza regionale, allora lo Stato e lo Senato ha un ruolo lievemente, ma per il resto la cosa è lunghezza, perché si è voluto evitare il concetto astratto di materia e individuare tipologie precise di leggi, capito? Ecco perché, ma per il resto non deve affatto stupire, non c'è alcun motivo di allarme su quello, veramente. Che stupisce. Allora, detto che ci dobbiamo fermare, ci chiedono anche quanto guadagnerebbero i nuovi senatori part time, niente come senatori, salvo che ci sarà la possibilità, ma questo da parte dei presidenti, di dare rimborsi spese per i trasferimenti. Beh, quindi almeno guardi, per io ho dei dati precisi al riguardo. Primo, avranno l'indennità o di sindaco o di consigliere regionale, certo. E su quella però la riforma pone il tetto, perché il consigliere regionale di qualsiasi regione non potrà ottenere più del sindaco del comune capoluogo. Primo. Sì. Secondo, bilancio Senato 2016, i rimborsi sono circa 18 milioni di euro, le indennità sono circa 26. Quindi i 26 milioni di euro di indennità spariscono completamente, i 18 milioni di euro di rimborsi saranno ridimensionati a un terzo dei componenti, e certamente come quindi, e vedremo di quanto. Vedremo di quanto, e questi sarebbero i risparmi. Ci dobbiamo fermare qui, grazie professor Carlo Fusaro. Questa zoppicante par condicio non per colpa nostra. Lo so, ma ci riferiamo più avanti. Tutti dai. Al treno gratis, oh oh oh oh oh. Ciao!